5H. Ascolta e rispondi. Ecco i miei DVD. Quanti ne vuoi? Ne voglio uno. Ecco i miei libri. Quanti ne vuoi? Ne voglio uno. Ecco i miei pennarelli. Quanti ne vuoi? Ne voglio uno. Ecco le mie cravatte. Quante ne vuoi? Ne voglio una. Ecco le mie riviste. Quante ne vuoi? Ne voglio una. Ecco le mie valigie. Quante ne vuoi? Ne voglio una.